Donna che segui un'ombra grigia, fermati accanto a me. Parlami, ti prego, dei tuoi affanni e di te. Prendimi per mano e cantami quella storia dei perché, dove una risposta venga almeno ad illuminarmi un po'. Mille strade che si aprono con le luci e i colori, solo specchio nei ricordi belli ed anche dei cattivi umori. Ma tu non ti fermi mai, ti guardo e mi inchino a te, più donna di sempre ormai, perché? Ed ora che gli anni han dettato i tempi, al tempo tu ormai non ci sei, fra brume incantate e nottate d'argento, dove sei? Sei nelle tante rughe che sul viso ci segnano e ci riconoscono, sei nei profumi densi di primavera, nei mille e mille stridi di rondini. Cercami nel buio e io ci sarò, portami dove non saprei tornare, non aprire gli occhi io non lo farò, non senti com'è dolce il mare. Libera, dove non c'è spazio per i forsi e meno ancora per i perché. Se basta prendersi per mano, volersi bene è limpido, volersi bene sa di fresco e porta molto lontano.